America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Da New York, Mario Platero. Si apre una nuova settimana, soprattutto fra un paio d'ore si apriranno di nuovo i mercati, mercati che hanno tenuto relativamente bene a New York, nonostante la notizia di un aumento del tasso di sconto da parte della Fed la settimana scorsa. E dunque si guarda in avanti, si guarda a una nuova legge sulla trasparenza per le carte di credito che partirà oggi, si guarda a un voto procedurale al Senato per una legge che dovrebbe portare 15 miliardi di dollari per sostenere il mercato del lavoro, una notizia questa positiva, e poi due pezzi forti. Mercoledì e giovedì avremo le audizioni di Ben Bernanke, finalmente si dice ci spiegherà qualche cosa di più preciso in materia di tassi di interesse. Sempre mercoledì ci sarà un'audizione dell'amministratore delegato della Toyota, Akio Toyoda, per spiegare come mai la sua fabbrica d'auto ha avuto i problemi che ha avuto, soprattutto in materia di freni. Una settimana dunque che si prospetta alquanto tranquilla, sicuramente interessante. Vorrei però passare adesso a un altro argomento che di nuovo ha appassionato gli americani su un fronte completamente diverso. Una serie di discussioni attorno a scandali sessuali di atleti, politici, attori. I thought I could get away with whatever I wanted to. I felt that I had worked hard my entire life and deserved to enjoy all the temptations around me. I felt I was entitled. Credevo di avere ogni diritto, e Tiger Woods che chiede scusa agli americani, lo avrete sentito negli ultimi giorni. Alla fine questa sua dichiarazione pubblica ha funzionato, molti degli sponsor lo hanno già perdonato e forse tornerà sui campi da golf. Ma le vicende degli scandali sessuali in America continuano in qualche modo a tenere banco. Ad esempio, un episodio sui Kennedy. I find the version of JFK that we see in this script to be really nonsensical. E la voce di Nigel Hamilton in Non documento di protesta organizzato contro un documentario sui Kennedy prodotto da Joel Cernan, un uomo della destra che ha lavorato con Fox e che ha prodotto 24. Ebbene, in questo documento di petizione orale si chiede di bandire questo documentario sui Kennedy dal History Channel. È troppo scandalistico, racconta storie di sesso che non sono vere, una miniserie di 8 ore. Dunque, pesi e misure diverse. Per i Kennedy risparmiamoli, per il povero Tiger Woods messo al bando. E terzo caso, sentite cosa ha da dire Jack Nicholson. Now you may wonder why I do call him the pro. You know, I don't want to tiptoe into any kind of, you know, delicate territory. But you know, I want to say something about your favorite hobby. Jack Nicholson sta parlando di un suo collega attore, Warren Beatty. Dice: voglio parlare, e in tono ironico sottolinea, del tuo hobby favorito. Qual è l'hobby favorito di Warren Beatty? Beh, è quello di andare a letto con quante più donne possibile. È uscita una sua biografia proprio in questi giorni, una critica sul New York Times, anche piuttosto positiva. Ma cosa rivela questa biografia? Che Warren Beatty è andato a letto con 12.775 donne, un record, uno immaginerebbe. In realtà no, perché l'America si è scatenata, sono venuti fuori altri record. Fidel Castro detiene il record assoluto, sarebbe andato a letto con 35.000 donne, la star del basket Will Chamberlain 20.000 amanti, Beatty è soltanto al terzo posto, addirittura Hugh Hefner, patron di Playboy, è all'ottavo posto. Queste diverse storie emerge appunto una situazione in cui ci sono pesi e misure diverse. Ne parliamo con Michael Wolfe, giornalista di Vanity Fair, un autore, si è occupato recentemente proprio di queste tematiche. Hello Mario, glad to be with you. Yeah, now, why such a different reaction on three different stories involving sex? What's happening in America? Is everybody crazy? Well, Well, everybody is clearly crazy because some. Sì, forse siamo un po' tutti matti qui in America, perché da una parte qualcuno può andare a letto con chi vuole senza problemi, altri assolutamente no, non possono farlo. Per esempio, con gli attori è quasi dovuto che vadano a letto con quante più persone possono, diventano quasi degli eroi. Con certi sportivi uguale, nel basket, nel football, ad esempio. E poi scopriamo invece che per il golf è completamente proibito, non si può, Tiger Woods non può farlo. E chiediamo a Wolf cosa pensa di questa polemica sui Kennedy. Non credo di aver mai visto un documentario televisivo negativo sui Kennedy, dice Wolf. Perciò mi stupisce che adesso che ce n'è uno negativo si vada così a penalizzarlo. Ma tiriamola fuori questa storia del sesso dei Kennedy. E gli chiediamo ancora un parallelo fra Spitzer condannato e Bill Clinton assolto. And I think it's worth comparing Spitzer to Bill Clinton. Un confronto fra Spitzer, ex governatore di New York, e Bill Clinton? Beh, nel caso di Bill Clinton lo sapevano tutti, andava a letto con chiunque gli potesse capitare di andare a letto. Monica Lewinsky fu soltanto l'ultimo degli affari. Nel caso di Spitzer invece non si sapeva nulla, addirittura lui aveva perseguitato delle prostitute e poi è finito per andare lui stesso con una prostituta. E allora c'è la questione del carattere: se te lo aspetti in qualche modo sei pronto a perdonare, se non te lo aspetti, se fai una scoperta che era assolutamente imprevedibile, allora no. Lo stesso vale per Tiger Woods. Tiger Woods sembrava un bravissimo ragazzo e poi all'improvviso si scopre che non lo era. E l'aspetto del mentire che l'opinione pubblica non accetta. E allora, chiediamo ancora a Wolf? All of these things feed into the myriad of conflicts that Americans have about. È difficile avere un denominatore comune, perché tutto finisce nelle miriadi di conflitti che gli americani hanno sul sesso. E non solo gli americani, ma che i media stessi hanno sul sesso. E dunque si crea in effetti una gran confusione. Chiediamo a Wolf infine cosa pensa anche dell'Italia. Much of our mixed up morality is now crossing over into Italian culture. Ma io credo che molta della nostra moralità confusa, alla fine una moralità confusa, finisca per sbarcare in Italia e, voglio dire, sbarcare anche nei media italiani. E vorrei osservare che in questa era dell'elettronica, dice ancora Wolf, siamo tutti diventati assolutamente trasparenti e quindi nascondere una vita privata che poi è in conflitto con una vita pubblica è sempre più difficile e secondo me è anche sbagliato. Dunque, da tutta questa vicenda che abbiamo osservato in America, cosa possiamo concludere? Ma siate voi stessi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Non potevamo che dedicarla a Warren Beatty, una canzone scritta da Carly Simon nel 1972, You Are So Vain. Carly Simon fu una delle 12.000 e passa amanti di Warren Beatty, ma non se l'è presa, gli ha addirittura scritto una canzone in semi adorazione, Sei così vanitoso. Eccola. Partner, they'd be your partner, and your.